ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Il Visconte di Mezzato di Italo Calvino. Spesso il mattino andavo alla bottega di Pietro Chiodo a vedere le macchine che l'ingegnoso maestro stava costruendo. Il carpentiere viveva in angosce e rimorsi sempre maggiori da quando il buono veniva a trovarlo nottetempo e gli rimproverava il tristo fine delle sue invenzioni e lo incitava a costruire meccanismi messi in moto dalla bontà e non dalla sete di sevizie. «Ma quale macchina devo dunque costruire, Mastro Medardo?» chiedeva Pietro Chiodo. «Ora ti spiego. Potresti, per esempio», e il buono cominciava a descrivergli la macchina che avrebbe ordinato lui se fosse stato visconte al posto dell'altra sua metà, e s'aiutava nelle spiegazioni tracciando confusi disegni. A Pietro Chiodo parve dal principio che questa macchina dovesse essere un organo, un gigantesco organo, i cui tasti muovessero musiche dolcissime, e già si disponeva a cercare il legno adatto per le canne, quando, da un altro colloquio col buono, tornò con le idee più confuse, perché pareva che egli volesse far passare per le canne non aria, ma farina. Insomma, doveva essere un organo, ma anche un mulino che macinasse per i poveri e anche, possibilmente, un forno per fare le focacce. Il buono ogni giorno perfezionava la sua idea e impiastrecciava di disegni carte e carte, ma Pietro Chiodo non riusciva a tenergli dietro, perché quest'organo mulino forno doveva pure tirar l'acqua su dai pozzi, risparmiando la fatica agli asini, e spostarsi su ruote per contentare diversi paesi, e anche, nei giorni delle feste, sospendersi per aria e acchiappare con reti tutto intorno le farfalle. E al carpentiere veniva il dubbio che costruire macchine buone fosse al di là delle possibilità umane, mentre le sole che veramente potessero funzionare con praticità ed esattezza fossero i patiboli e i tormenti. Difatti, appena il gramo esponeva a Pietro Chiodo l'idea di un nuovo meccanismo, subito al maestro veniva in mente il modo per realizzarlo e si metteva all'opera, e ogni particolare gli appariva insostituibile e perfetto, e lo strumento finito un capolavoro di tecnica e di ingegno. Il maestro s'angustiava. Sarà forse nel mio animo questa cattiveria che mi fa riuscire solo macchine crudeli? Ma intanto continuava a inventare con zelo e abilità altri tormenti. Un giorno lo vidi lavorare intorno a uno strano patibolo in cui una forca bianca incorniciava una parete di legno nero e la corda, pure bianca, scorreva attraverso due buchi nella parete, proprio nel punto del laccio scorsoio. «Cos'è questa macchina, maestro?» gli domandai. «Una forca per impiccare di profilo», disse. «E per chi l'avete costruita?» «Per un uomo solo che condanna ed è condannato. Con metà testa condanna se stesso alla pena capitale e con l'altra metà entra nel nodo scorsoio ed esala l'ultimo fiato. Io avrei voglia che si confondesse tra le due». Compresi che il gramo, sentendo crescere la popolarità della metà buona di se stesso, aveva stabilito di sopprimerla al più presto. Difatti chiamò gli sbirri e disse: «Un losco vagabondo da troppo tempo infesta il nostro territorio seminando zizzania. Entro domani catturate il mestatore e portatelo a morte». «Sarà fatto, signoria», dissero gli sbirri e se ne andarono. Guarciò com'era il gramo, non s'accorse che rispondendogli s'erano strizzato l'occhio tra di loro. Bisogna sapere che una congiura di palazzo era stata ordita in quei giorni e ne facevano parte anche gli sbirri. Si trattava di imprigionare e sopprimere l'attuale mezzo visconte e consegnare il castello e il titolo all'altra metà. Questa però non ne sapeva niente e la notte nel fienile dove abitava si svegliò circondata dagli sbirri. «Non abbiate paura», disse il caposbirro. «Il visconte ci ha mandato a trucidarvi, ma noi, stanchi della sua crudele tirannia, abbiamo deciso di trucidare lui e mettere voi al suo posto». «Che sento mai? E l'avreste già fatto? Dico, il visconte, l'avreste di già trucidato?» «No, ma lo faremo senz'altro in mattinata». «Ah, sia ringraziato il cielo. No, non macchiatevi d'altro sangue, che troppo già ne è stato sparso. Che bene potrebbe venire da una signoria che nasce dal delitto». «Fa niente, lo chiudiamo nella torre e possiamo star tranquilli». «Non alzate le mani su di lui, nessuno, vi scongiuro. Anche a me addolora la prepotenza del visconte. Eppure non c'è altro rimedio che dargli buon esempio, mostrandogli sì gentili e virtuosi». «Allora dobbiamo trucidare voi, signore». «Eh no, vi ho detto che non dovete trucidare nessuno». «Come si fa? Se non sopprimiamo il visconte, dobbiamo obbedirgli». «Tenete questa ampolla, contiene alcune once, le ultime che mi rimangono, dell'unguento con cui gli eremiti boemi mi guarirono, e che mi è stato finora prezioso quando, al mutare del tempo, mi duole la smisurata cicatrice. Portatelo al visconte, ditegli solo: è il regalo d'uno che sa cosa vuol dire avere le vene che finiscono in un tappo. Gli sbirri andarono al visconte con l'ampolla, e il visconte li condannò al patibolo. Per salvare gli sbirri, gli altri congiurati decisero di insorgere. Maldestri scoprirono le fila della rivolta che fu soffocata nel sangue. Il buono portò fiori sulle tombe e consolò vedove e orfani. Chi non si lasciò mai commuovere dalla bontà del buono fu la vecchia Sebastiana. Andando per le sue zelanti imprese, il buono si fermava spesso alla capanna della balia e le faceva visita, sempre gentile e premuroso, e lei ogni volta si metteva a fargli un predicozzo, forse per via del suo indistinto amor materno, forse perché la vecchiaia cominciava a offuscarle i pensieri. La balia non faceva gran conto della separazione di Medardo in due metà. Sgridava una metà per le malefatte dell'altra, dava all'una consigli che solo l'altra poteva seguire, e così via. «E perché hai tagliato la testa al gallo di nonna Bigin, poverina, che aveva solo quello? Grande come sei, ne fai una per colore!» «Ma perché lo dici a me, balia? Sai che non sono stato io.» «Oh, bella! E sentiamo un po', chi è stato?» «Io, ma...» «Ah, vedi? Ma non io qui! Se sono vecchia, mi credi anche ingrullita? Io, quando sento raccontare qualche birberia, subito capisco se è una delle tue, e dico tra me: giurerei che c'è lo zampino di Medardo. Ma sbagliate sempre!» «Mi sbaglio! Voi giovani dite a noi vecchi che sbagliamo, e voi altri? Tu hai regalato la tua stampella al vecchio Isidoro?» «Sì, quello sono stato proprio io.» «E te ne vanti? Gli serviva per bastonare sua moglie, poveretta. Lui mi ha detto che non poteva camminare per la gotta. Faceva finta, e tu subito gli regali la stampella. Ora l'ha rotta sulla schiena di sua moglie, e tu giri appoggiandoti a un ramo forcelluto. Sei senza testa, ecco come sei, sempre così. E quando hai ubriacato il toro di Bernardo con la grappa?» «Ma quello non ero io.» «Eh sì, non eri tu. Se lo dicono tutti, è sempre lui, il visconte.» Le frequenti visite del buono a Prato Fungo erano dovute, oltre che al suo attaccamento filiale per la balia, al fatto che egli in quel tempo si dedicava a soccorrere i poveri lebbrosi. Immunizzato dal contagio, sempre pare per le cure misteriose degli eremiti, girava per il villaggio informandosi minutamente dei bisogni di ciascuno e non lasciando loro tregua finché non s'era prodigato per loro in tutti i modi. Spesso, sul dorso del suo mulo, faceva la spola tra Prato Fungo e la casetta del dottor Triloni, chiedendogli consigli e medicine. Non che il dottore avesse ora il coraggio di avvicinarsi ai lebbrosi, ma pareva cominciasse, con il buon Medardo per intermediario, a interessarsi di loro. Però l'intento di mio zio andava più lontano. Non s'era proposto di curare solo i corpi dei lebbrosi, ma pure le anime. Ed era sempre in mezzo a loro, a far la morale, a ficcare il naso nei loro affari, a scandalizzarsi, a far prediche. I lebbrosi non lo potevano soffrire. I tempi beati e licenziosi di Prato Fungo erano finiti. Con questo esile figuro, ritto su una gamba sola, nero vestito, cerimonioso e sputa sentenze, nessuno poteva fare il piacere suo senza essere recriminato in piazza, suscitando malignità e ripicche. Anche la musica, a furia di sentirsela rimproverare come futile, lasciva e non ispirata a buoni sentimenti, venne loro in uggia e i loro strani strumenti si coprirono di polvere. Le donne lebbrose, senza più quello sfogo di far baldoria, si trovarono un tratto sole di fronte alla malattia e passavano le sere piangendo e disperandosi. «Delle due metà è peggio la buona della grama», si cominciava a dire a Prato Fungo. Ma non era soltanto tra i lebbrosi che l'ammirazione per il buono era andata scemando. «Meno male che la palla di cannone l'ha solo spaccato in due», dicevano tutti. «Se lo faceva in tre pezzi, chissà cosa ancora ci toccava di vedere!» Gli ugonotti ora facevano i turni di guardia per proteggersi anche da lui, che ormai aveva perso ogni rispetto verso di loro e veniva tutte le ore a spiare quanti sacchi vi fossero nei loro granai e a far prediche sui prezzi troppo alti, e dopo andava a raccontarlo in giro rovinando i loro commerci. Così passavano i giorni a Terralba e i nostri sentimenti si facevano incolori e ottusi, poiché ci sentivamo come perduti tra malvagità e virtù ugualmente disumane. Oh, Non c'è notte di luna in cui negli animi malvagi le idee perverse non s'aggrovigliino come nidiate di serpenti, e in cui negli animi caritatevoli non sboccino gigli di rinuncia e dedizione. Così, tra i dirupidi dell'alba, le due metà di Medardo vagavano tormentate da rovelli opposti. Prese entrambe la propria decisione, al mattino si mossero per metterla in pratica. La mamma di Pamela, andando a tingere acqua, cadde in un trabocchetto e sprofondò nel pozzo. Appesa a una corda urlava «Aiuto!» quando vide nel cerchio del pozzo, contro il cielo, la sagoma del gramo che le disse «Volevo solo parlarvi. Ecco quanto io ho pensato. In compagnia di vostra figlia Pamela si vede spesso un vagabondo dimezzato. Dovete costringerlo a sposarla. Ormai l'ha compromessa e se è un gentiluomo deve riparare. Ho pensato così. Non chiedete che vi spieghi altro». Il babbo di Pamela portava al frantoio un sacco di olive del suo olivo, ma il sacco aveva un buco e una scia d'olive lo seguiva per il sentiero. Sentendo alleggerito il carico, il babbo tolse il sacco dalla spalla e s'accorse che era quasi vuoto. Ma dietro vide che veniva il buono, raccoglieva le olive una per una e le metteva nel mantello. «Vi seguivo per parlarvi e ho avuto la fortuna di salvarvi le olive. Ecco quanto ho in cuore». Da tempo penso che l'infelicità altrui, che è mio intento soccorrere, forse alimentata proprio dalla mia presenza. Me ne andrò da Terralba, ma solo se questa mia partenza ridarà pace a due persone. A vostra figlia, che dorme in una tana mentre le spetta un nobile destino, e alla mia infelice parte destra, che non deve restare così sola. Pamela e il visconte devono unirsi in matrimonio. Pamela stava ammaestrando uno scoiattolo, quando incontrò sua mamma che fingeva di andar per pigne. «Pamela», disse la mamma, «è giunto il tempo che quel vagabondo chiamato il buono ti debba sposare». «D'onde viene questa idea?» disse Pamela. «Lui t'ha compromessa, lui ti sposi. È tanto gentile che se gli dici così non vorrà dir di no». «Ma come ti sei messa in testa questa storia?» «Zitta! Sapessi chi me l'ha detto non faresti più tante domande. Il gramo in persona me l'ha detto, il nostro illustrissimo visconte». «Accidenti!» disse Pamela lasciando cadere lo scoiattolo d'ingrembo. «Chissà che tranello vuole preparare!» Di lì a poco stava imparando a fischiare con una foglia d'erba tra le mani, quando incontrò suo babbo che faceva finta d'andare per legna. «Pamela», disse il babbo, «è ora che tu dica di sì al visconte Gramo, al solo patto che ti sposi in chiesa. È un'idea tua o qualcuno te l'ha detto? Non ti piace diventare viscontessa? Rispondimi a quello che t'ho domandato!» «Bene. Pensa che lo dice l'anima meglio intenzionata che ci sia, il vagabondo che chiamano il buono». «Ah, non ne ha più da pensare quello lì. Vedrai cosa combino». Andando con il magro cavallo per le fratte, il gramo rifletteva sul suo stratagemma. Se Pamela si sposava col buono, di fronte alla legge era sposa di Medardo di Terralba, cioè era sua moglie. Forte di questo diritto, il gramo avrebbe potuto facilmente toglierla al rivale, così arrendevole e poco combattivo. Ma si incontra con Pamela che gli dice «Visconte, ho deciso che se voi ci state, ci sposiamo». «Tu e chi?» fece il visconte. «Io e voi, e verrò al castello e sarò la viscontessa». Il gramo questa non se l'aspettava e pensò «Allora è inutile montare tutta la commedia di farla sposare all'altra mia metà. Me la sposo io e tutto è fatto». Così disse «Ci sto!» e Pamela. «Mettetevi d'accordo con mio babbo!» Di lì a un po' Pamela incontrò il buono sul suo mulo. «Medardo», disse lei, «ho capito che sono proprio innamorata di te e se vuoi farmi felice devi chiedere la mia mano di sposa». Il poverino che per il bene di lei aveva fatto quella gran rinuncia rimase a bocca aperta. «Ma se è felice a sposare me, non posso più farla sposare all'altro», pensò e disse «Cara, corro a predisporre tutto per la cerimonia». «Mettiti d'accordo con mia mamma, mi raccomando», disse lei. Tutta Terralba fu sossopra quando si seppe che Pamela si sposava. Chi diceva che sposava l'uno, chi diceva l'altro. I genitori di lei pareva facessero apposta per imbrogliare le idee. Certo, al castello stavano lustrando e ornando tutto come per una gran festa e il visconte s'era fatto fare un abito di velluto nero con un grande sbuffo alla manica e un altro alla braca. Ma anche il vagabondo aveva fatto strigliare il povero mulo e s'era fatto rattoppare il gomito e il ginocchio. A ogni buon conto, in chiesa, lucidarono tutti i candelieri. Pamela disse che non avrebbe lasciato il bosco che al momento del corteo nuziale. Io facevo le commissioni per il corredo. Si cucì un vestito bianco, con il velo e lo strascico lunghissimo, e si fece corona e cintura di spighe di lavanda. Poiché di velo le avanzava ancora qualche metro, fece una veste da sposa per la capra e una veste da sposa anche per l'anatra, e corse così per il bosco, seguita dalle bestie, finché il velo non si strappò tutto tra i rami e lo strascico non raccolse tutti gli aghi di pino e i ricci di castagne che seccavano per i sentieri. Ma la notte prima del matrimonio era pensierosa e un po' spaurita. Seduta in cima a una collinetta senza alberi, con lo strascico avvolto attorno ai piedi, la coroncina di lavanda di sghimbescio, poggiava il mento su una mano e guardava i boschi intorno, sospirando. Io ero sempre con lei, perché dovevo fare da paggetto insieme a Esaù, che però non si faceva mai vedere. «Chi sposerai, Pamela?» le chiesi. «Non so», lei disse. «Non so proprio che succederà. Andrà bene? Andrà male?» Dai boschi si levava ora una specie di grido gutturale, ora un sospiro. Erano i due pretendenti dimezzati che, in preda all'eccitazione della vigilia, vagavano per anfratti e dirupi del bosco, avvolti nei neri mantelli, l'uno sul suo magro cavallo, l'altro sul suo mulo spelacchiato, e mugghiavano e sospiravano, tutti presi nelle loro ansiose fantasticherie. Il cavallo saltava per balza e frane, il mulo s'arrampicava per pendii e versanti, senza che mai i due cavalieri si incontrassero. Finché all'alba il cavallo spinto al galoppo non si azzoppò giù per un burrone e il gramo non poté arrivare in tempo alle nozze. Il mulo invece andava piano e sano e il buono arrivò puntuale in chiesa proprio mentre giungeva la sposa con lo strascico, sorretto da me e da Esaù, che si faceva trascinare. A vedere arrivare come sposo soltanto il buono che s'appoggiava alla sua stampella, la folla rimase un po' delusa. Ma il matrimonio fu regolarmente celebrato. Gli sposi dissero sì e si scambiarono l'anello. E il prete disse: «Medardo di Terralba e Pamela Marcolfi, io vi congiungo in matrimonio». In quella, dal fondo della navata, sorreggendosi alla gruccia, entrò il visconte, con l'abito nuovo di velluto a sbuffi, zuppo d'acqua e lacero. E disse: «Medardo di Terralba sono io. E Pamela è mia moglie». Il buono arrancò di fronte a lui. «No, il Medardo che ha sposato Pamela sono io». Il gramo buttò via la stampella e mise la mano alla spada. Al buono non restava che fare altrettanto. «In guardia!» Il gramo si lanciò in un affondo. Il buono si chiuse in difesa. Ma erano già arrotolati per terra tutti e due. Convennero che era impossibile battersi tenendosi in equilibrio su una gamba sola. Bisognava rimandare il duello per poterlo preparare meglio. «E io sapete cosa faccio?» disse Pamela. «Me ne torno al bosco». E prese la corsa via dalla chiesa, senza più paggetti che le reggessero lo strascico. Sul ponte trovò la capra e l'anatra, che la stavano aspettando, e s'affiancarono a lei, trotterellando. «Ask me, I might go. Why not take me with you? Ask me, I might go. Late night shopping». Il duello fu fissato per l'indomani all'alba al Prato delle Monache. Mastro Pietro Chiodo inventò una specie di gamba di compasso che, fissata alla cintura dei dimezzati, permetteva loro di stare ritti e di spostarsi eppure di inclinare la persona avanti e indietro, tenendo in fissa la punta nel terreno per star fermi. Il lebbroso Galateo, che da sano era stato un gentiluomo, fece da giudice d'armi. I padrini del gramo furono il padre di Pamela e il caposbirro. I padrini del buono, due ugonotti. Il dottor Triloni assicurò l'assistenza e venne con una balla di bende e una damigiana di balsamo, come avesse da curare una battaglia. Buon per me, che dovendo aiutarlo a portare tutta quella roba, potei assistere allo scontro. C'era l'alba verdastra. Sul prato i due sottili duellanti neri erano fermi con le spade sull'attenti. Il lebbroso soffiò il corno. Era il segnale. Il cielo vibrò come una membrana tesa. I ghiri nelle tane affondarono le unghie nel terriccio. Le gazze, senza togliere il capo di sotto l'ala, si strapparono una penna dall'ascella facendosi dolore. E la bocca dell'ombrico mangiò la propria coda. E la vipera si punse coi suoi denti. E la vespa si ruppe l'aculeo sulla pietra. E ogni cosa si voltava contro se stessa. La brina delle pozze ghiacciava, i licheni diventavano pietra e le pietre lichene, la foglia secca diventava terra e la gomma spessa e dura uccideva senza scampo gli alberi. Così l'uomo s'avventava contro di sé, con entrambe le mani armate d'una spada. Ancora una volta Pietro Chiodo aveva lavorato da maestro. I compassi disegnavano cerchi sul prato e gli schermidori si lanciavano in assalti scattanti e legnosi, imparate e finte, ma non si toccavano. In ogni affondo, la punta della spada pareva dirigersi sicura verso il mantello svolazzante dell'avversario. Ognuno sembrava s'ostinasse a tirare dalla parte in cui non c'era nulla, cioè dalla parte dove avrebbe dovuto essere lui stesso. Certo, se invece di mezzi duellanti fossero stati duellanti interi, si sarebbero feriti chissà quante volte. Il gramo si batteva con rabbiosa ferocia, eppure non riusciva mai a portare i suoi attacchi dove davvero era il suo nemico. Il buono aveva la corretta maestria dei mancini, ma non faceva che crivellare il mantello del visconte. A un certo punto si trovarono Elsa contro Elsa. Le punte di compasso erano infitte nel suolo come erpici. Il gramo si liberò di scatto, già stava perdendo l'equilibrio e rotolando al suolo, quando riuscì a menare un terribile fendente, non proprio addosso all'avversario, ma quasi. Un fendente parallelo alla linea che interrompeva il corpo del buono, e tanto vicino a essa che non si capì subito se era più in qua o più in là. Ma presto vedemmo il corpo sotto il mantello imporporarsi di sangue, dalla testa all'attaccatura della gamba, e non ci furono più dubbi. Il buono s'accasciò, ma cadendo, in un'ultima movenza ampia e quasi pietosa, abbatté la spada anch'egli vicinissimo al rivale, dalla testa all'addome, tra il punto in cui il corpo del gramo non c'era e il punto in cui prendeva a esserci. Anche il corpo del gramo ora buttava sangue, per tutta l'enorme antica spaccatura. I fendenti dell'uno e dell'altro avevano rotto di nuovo tutte le vene e riaperto la ferita che li aveva divisi, nelle sue due facce. Ora giacevano riversi, e i sangui, che già erano stati uno solo, ritornavano a mescolarsi per il prato. Tutto preso da questa orrenda vista, non avevo badato a Triloni, quando m'accorsi che il dottore stava spiccando salti di gioia con le sue gambe da grillo, battendo le mani e gridando «È salvo! È salvo! Lasciate fare a me!» Dopo mezz'ora riportammo in barella al castello un unico ferito. Il gramo e il buono erano bendati strettamente assieme. Il dottore aveva avuto cura di far combaciare tutti i visceri e le arterie dell'una parte e dell'altra, e poi con un chilometro di bende li aveva legati così stretti che sembrava, più che un ferito, un antico morto imbalsamato. Mio zio fu vegliato giorni e notti tra la morte e la vita. Un mattino, guardando quel viso che una linea rossa attraversava dalla fronte al mento, continuando poi giù per il collo, fu la balia Sebastiana a dire «Ecco, si è mosso!» Un sussulto di lineamenti stava infatti percorrendo il volto di mio zio. Il dottore pianse di gioia al vedere che si trasmetteva da una guancia all'altra. Alla fine Medardo schiuse gli occhi, le labbra. Da principio la sua espressione era stravolta, aveva un occhio aggrottato e l'altro supplice, la fronte qua corrugata, la serena, la bocca sorrideva da un angolo e dall'altro digrignava i denti, poi a poco ritornò simmetrico. Il dottor Triloni disse «Ora è guarito». E esclamò Pamela «Finalmente avrò uno sposo con tutti gli attributi». Tell me what we need. Write a list of something. We don't need to need a thing. Late night shopping. Così mio zio Medardo ritornò uomo intero, né cattivo né buono, un miscuglio di cattiveria e bontà, cioè apparentemente non dissimile da quello che era prima di essere dimezzato, ma aveva l'esperienza dell'una e l'altra metà rifuse insieme, perciò doveva essere ben saggio. Ebbe vita felice, molti figli e un giusto governo. Anche la nostra vita mutò in meglio. Forse ci s'aspettava che, tornato intero il visconte, s'aprisse un'epoca di felicità meravigliosa. Ma è chiaro che non basta un visconte completo perché diventi completo tutto il mondo. Intanto Pietro Chiodo non costruì più forche, ma mulini, e Triloni trascurò i fuochi fatui per i morbilli e le risipole. Io invece, in mezzo a tanto fervore di interezza, mi sentivo sempre più triste e manchevole. Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane. Ero giunto sulle soglie dell'adolescenza e ancora mi nascondevo tra le radici dei grandi alberi del bosco a raccontarmi storie. Un ago di pino poteva rappresentare per me un cavaliere, o una dama, o un buffone. Io lo facevo muovere dinanzi ai miei occhi e mi esaltavo in racconti interminabili. Poi mi prendeva la vergogna di queste fantasticherie e scappavo. E venne il giorno in cui anche il dottor Triloni mi abbandonò. Un mattino, nel nostro golfo, entrò una flotta di navi impavesate che battevano bandiera inglese e si mise alla rada. Tutta Terralba venne sulla riva a vederle, tranne io, che non lo sapevo. Ai parapetti delle murate e sulle alberature c'era pieno di marinai che mostravano ananassi e testugini e srotolavano cartigli su cui erano scritte delle massime latine e inglesi. Sul cassero, in mezzo agli ufficiali, in tricorno e parrucca, il capitano Cook fissava con il cannocchiale la riva e appena scorse il dottor Triloni, diede ordine che gli trasmettessero con le bandiere il messaggio «Venga a bordo subito, dottore! Dobbiamo continuare quel 3-7!» Il dottore salutò tutti a Terralba e ci lasciò. I marinai intonarono un inno «Oh, Australia!» e il dottore fu issato a bordo, a cavalcioni d'una botte di vino cancarone. Poi le navi levarono le ancore. Io non avevo visto nulla, ero nascosto nel bosco a raccontarmi storie. Lo seppi troppo tardi e presi a correre verso la marina gridando «Dottore! Dottor Triloni! Mi prenda con sé! Non può lasciarmi qui, dottore!» Ma già le navi stavano scomparendo all'orizzonte e io rimasi qui, in questo nostro mondo pieno di responsabilità e di fuochi fatui. Manuela Mandracchia ha letto Il Visconte dimezzato di Italo Calvino, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.